Letture di Radio 24. Fino a qualche settimana fa, Paul Graham, scienziato informatico, era considerato il filosofo di Silicon Valley, il guru della rete. Oggi è travolto da insulti dalle bande dei guerrieri della giustizia sociale che imperversano su Twitter e sugli altri social. La sua colpa? Avere scritto sul proprio sito personale un saggio in cui sostiene che la disuguaglianza economica non è un male in sé, ma è solo la conseguenza dello sviluppo tecnologico e della natura umana, come raccontano Andrea Mancia e Simone Bressan in un articolo pubblicato nei giorni scorsi sul Giornale. Per Graham, scrivono gli autori, la diseguaglianza economica non è un male in sé, perché le sue radici possono essere diverse, alcune cattive, alcune buone. Può essere causata dall'evasione fiscale, per esempio, o dalla mancanza di opportunità economiche per segmenti della popolazione. E questo è male. Ma può anche essere causata dalla moltiplicazione di start-up di successo, che creano ricchezza senza sottrarla ad altri. E questo è un bene. Se ci sta a cuore il problema della povertà, scrive Graham nel suo saggio, proviamo a combatterla, non esitando, se necessario, a danneggiare la ricchezza. È molto meno sensato, invece, combattere la ricchezza, sperando in qualche modo di risolvere il problema della povertà. L'errore logico centrale dei fautori della giustizia sociale ad ogni costo è rappresentato, secondo Graham, da quella che lui definisce pie fallacy, traducibile in l'errata credenza della torta. Si tratta della convinzione che l'unico modo per arricchirsi sia sottrarre risorse a chi ne ha di meno, che l'unico modo per mangiare più fette di torta sia sottrarre fette di torta a qualcun altro. Ma la ricchezza non è un gioco a somma zero. E in un mercato libero molti diventano ricchi senza rubare ai poveri. Anzi, diventano ricchi creando ricchezza. E il progresso tecnologico ha moltiplicato questa dinamica. Negli anni 60, quando la diseguaglianza economica era più bassa, spiega Graham, quello che oggi sarebbe un potenziale creatore di una startup aveva solo due strade davanti: farsi assumere da una grande azienda o insegnare in un'università. La vera ragione per cui Mark Zuckerberg, insieme ad altri fondatori di startup, è diventato molto più ricco di quanto sarebbe potuto esserlo verso la metà dello scorso secolo, non è per qualche oscura macchinazione pianificata durante l'amministrazione Reagan, ma perché il progresso tecnologico ha reso molto più semplice creare nuove aziende in grado di crescere rapidamente. O si mette fuori legge la tecnologia, fissando anche limiti invalicabili alla produzione di ricchezza, oppure bisogna rassegnarsi a fare i conti con una diseguaglianza economica crescente. Io credo, conclude Graham, che la crescente diseguaglianza economica sia il destino inevitabile di nazioni che hanno scelto di non diventare qualcosa di nettamente peggiore. E quando ascolto le persone parlare di quanto la disuguaglianza economica sia un fatto negativo e di come si dovrebbe cercare di ridurla, mi sento come un animale selvatico che sta origliando una conversazione tra cacciatori. Ma eliminare le grandi variazioni di ricchezza significa eliminare del tutto la possibilità che nascano nuove start-up. Siete sicuri, cacciatori, di voler davvero sparare a questo strano animale? Su Twitter, ma anche sulle riviste apparentemente rispettabili della sinistra americana, finanziate proprio da miliardari della Silicon Valley, il plotone d'esecuzione ha sparato, senza pietà. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Andrea Mancia e Simone Bressan, Elogio della disuguaglianza che ci fa ricchi, da Il Giornale del 13 gennaio. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Letture di Radio 24. Ricordando David Bowie in un editoriale pubblicato sul Guardian, John Harris spiega che il Duca Bianco era il simbolo di una generazione in cui l'arte poteva davvero cambiare le cose. Perfino a 69 anni David Bowie era un po' diverso, scrive Harris. Mentre la maggior parte dei veterani sopravvissuti agli anni 60 e 70 hanno desiderato fortemente diventare dei veri e propri monumenti fin dal loro addio alle scene, lui è stato irrequieto e creativo fino all'ultimo. Un ascolto di The Next Day, l'album del 2013 che ha rappresentato il suo ritorno sulle scene, è sufficiente a dimostrare che Bowie aveva ancora molto da dire. Inoltre, Black Star, apparentemente creato nella consapevolezza di non avere ancora molto da vivere e pubblicato 2 giorni prima della sua scomparsa, è un ottimo disco davvero. Esplorativo, inquietante. Il lavoro di qualcuno che ha ancora voglia di rischiare. Il livello qualitativo dell'ultimo album spiega la reazione di stupore alla sua morte. Com'è possibile che un artista sia venuto a mancare proprio in un momento in cui era in pieno fermento creativo? In molte delle cose che sono state dette, emergeva anche un chiaro senso che siamo di fronte a qualcosa di storico. La scomparsa di uno dei più illustri rappresentanti di una generazione d'oro, che conferma che ci stanno lasciando ora, in fretta, non importa quanto ancora abbiamo bisogno di loro. Lou Reed, Joe Cocker, Jack Bruce dei Cream, il vecchio Lemmy. Di questi tempi le colonne dei necrologi delle riviste rock sono piene zeppe. Ma Bowie è stato l'uomo che in modo più spettacolare ha rappresentato le meraviglie di un'epoca che è arrivata giusto in tempo quando lui aveva 20 anni e del modo in cui poche persone sono riuscite ad aprire quelle porte che i più vecchi, i più conservatori, per lungo tempo avevano cercato di tenere chiuse. Nel mare di tributi su Twitter, lo scrittore John Savage lo ha definito un importante liberatore, centrando perfettamente il punto. Siamo di fronte a un artista che aveva il compito di condurre in qualche modo le persone nel futuro, e lo sapeva bene. Ed è questo che si sente nelle sue canzoni migliori, oltre a una grandissima inventiva nelle musiche e nei testi. Da dove veniva tutto questo? I dettagli dei primi anni di vita di Bowie la dicono lunga riguardo le circostanze storiche che lo hanno forgiato. È nato solo 17 mesi dopo la resa del Giappone, da genitori le cui vite erano state segnate dalla Seconda Guerra Mondiale. Al termine della scuola dell'obbligo, ha insistito per poter frequentare il Bromley Technical School, un luogo apparentemente destinato a produrre artisti e ingegneri, il cui dipartimento artistico era gestito da un professore che accendeva la creatività e la curiosità dei suoi studenti. Era il padre di Peter Frampton, che successivamente avrebbe collaborato con Bowie. Dopo i primi tentativi di far carriera nella musica, Bowie ha avuto la possibilità di sperimentare il vortice creativo che era stato generato dal Beckenham Arts Lab e ha studiato ballo e mimo sotto la guida di Lindsay Kemp. Sullo sfondo, la crescita dell'educazione stava allargando gli orizzonti, mentre il nascente conflitto ideologico alimentava l'idea che l'arte dovesse fare domande scomode. Almeno in termini culturali, l'Inghilterra delle bombette e delle distinzioni di classe era vulnerabile come mai prima di allora. Ma soprattutto, questo era il periodo in cui un nuovo senso di individualità sostituiva l'idea di ritagliarsi semplicemente uno spazio nella massa. La sinistra politica considera questo periodo come un'epoca di insurrezione e ribellione, ma è altrettanto vero che ha dato origine all'individualismo moderno così amato dalla destra. Non c'è modo di risolvere questo conflitto, e quando si parla di arte e musica, non ce n'è nemmeno bisogno. Il punto è che se ci si trovava nel posto giusto, tutto appariva in fermento, e per le poche persone di grandissimo talento, il palco era pronto. Il successo dei Beatles è stato importante per spazzar via le vecchie gerarchie. Gli Stones rappresentavano la semplice disobbedienza, ma 6 anni dopo che questi 2 gruppi avevano raggiunto l'apice del loro successo, Bowie ha rappresentato qualcosa di ancora più profondo, come dimostrano i ricordi ancora oggi turbati di quelli che avevano avuto l'occasione di vedere Bowie quando cantò Starman a Top of the Pops, un'espressione di sé così perfetta da sfidare le idee comuni non solo riguardo la sessualità, ma anche riguardo il genere, e non dimentichiamolo, stiamo parlando del 1972. Oggi sembra che la musica rock serva a uno scopo diverso. È così onnipresente, disponibile gratis, ci avreste creduto, che tende da una parte a rassicurare, dall'altra a rappresentare nient'altro che se stessa. Oggi che le vecchie barriere vengono ricostruite, come dimostra il forte ritorno del femminismo e le rinnovate preoccupazioni sulle questioni di classe sociale, i cantanti e i musicisti non sembrano in grado di essere utili. Alla notizia della morte di Bowie non c'è stata solo una reazione di stupore, ma si è diffuso anche il senso di una perdita. La perdita di un mondo in cui l'arte poteva rompere la normalità. Un'idea che oggi sembra quanto mai bizzarra. Per citare il ritornello di una delle sue canzoni recenti più emozionanti, «Dove siamo ora?». Le altre parole che mi venivano in mente mentre ascoltavo i vari omaggi che venivano resi a Bowie erano quelle di Morrissey, uno dei tanti artisti che avevano subito l'influenza di Bowie e che a lui doveva molto. Lo so che è finita, ma resto aggrappato. Non so dove altro potrei andare. Quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di John Harris commemorando Bowie. Commemoriamo anche la fine di un'era in cui la musica poteva davvero cambiare le cose. Dal Guardian del 12 gennaio. Un anno dopo la strage alla redazione di Charlie Hebdo, ci si domanda ancora se la satira contro la religione sia da considerarsi sempre legittima. Se lo chiedono anche Alberto Melloni, Francesca Cadeddu e Federica Meloni, che nel libro Blasfemia, diritti e libertà mettono a confronto le opinioni di storici, teologi, filosofi e giusti sull'argomento. Commentando il libro sul domenicale del Sole 24 Ore, Carlo Melzi de Rille e Giulio Enea Vigevani scrivono che, in una società laica, le convinzioni religiose non hanno maggiore dignità e valore rispetto a quelle filosofiche, politiche o di altro genere. Quindi, continuano gli autori, come nessuno può invocare lo Stato per offese a una qualunque propria ideologia, analogamente in una società davvero aperta, i fedeli non hanno strumenti giuridici per opporsi alla critica, anche feroce e irrisoria, alle religioni. Il dibattito partiva dalle reazioni alla copertina di uno degli ultimi numeri di Charlie Hebdo, dove a fianco del titolo «Un anno dopo l'assassino corre ancora» viene raffigurato un dio dalle fattezze riconoscibilmente cristiane. In un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera, Pierluigi Battista confronta la reazione dei media a questa nuova satira con quella che gli stessi media avevano mostrato un anno fa. Tutti i media hanno doverosamente ripreso l'ultima copertina di Charlie Hebdo, quella che raffigura un dio assassino con le fattezze iconografiche del dio cristiano. Bene, l'autocensura si allenta, finalmente non si nasconde la realtà. Le immagini più irritanti della satira non vengono cancellate. Ma allora tutti i media che un anno fa, dopo lo sterminio islamista di Parigi, si rifiutarono di pubblicare le vignette su Maometto che avevano scatenato l'ira degli assassini jihadisti, non lo fecero, come pure pateticamente dissero, per rispetto, per non dare man forte ai bestemmiatori, per non urtare la sensibilità dei musulmani di tutto il mondo. Lo fecero più semplicemente per paura. Pubblicare le vignette blasfeme sul Dio dei cristiani e degli ebrei non comporta nessuna conseguenza. Pubblicare quelle su Maometto può esporre a rappresaglie mortali. Paura, non rispetto. Ipocrisia, non moderazione. Gli scrittori, Joyce Carol Oates in testa, che un anno fa protestarono contro un premio da consegnare alla testata Charlie Hebdo in nome della libertà d'espressione, non lo fecero per rispetto delle religioni. No. Per paura. I vignettisti italiani molto famosi e che stanno sempre in TV disegnano deliberatamente sconcezze sul Papa e mai su un imam, non perché siano rispettosi, ma perché hanno paura. Fanno tanto gli spavaldi, ma sono come Don Abbondio. Gli artisti che creano sculture o dipinti in cui la Madonna o Gesù Cristo vengono raffigurati in pose oscene amano fare elettrizzanti provocazioni solo quando non entra in gioco la paura. Che loro chiamano rispetto, quando potrebbero offendersi quelli che decapitano e sgozzano. Gli scrittori di opere teatrali possono pure fare affogare un crocefisso negli escrementi, ma scoprono il rispetto solo quando al centro della scena c'è qualche simbolo della religione musulmana. Ma si chiama paura, non rispetto. Il silenzio sugli assassini di Theo van Gogh e la messa al bando del suo Submission non c'entrano col rispetto. C'entrano con la paura. Quando in un museo inglese tolgono dalle pareti un quadro con Maometto, lo fanno per paura, non per rispetto. Se c'era un pastore protestante o un rabbino disegnati senza rispetto, lo lasciavano lì. Nessuno li avrebbe sfiorati, nessuno si sarebbe presentato armato e minaccioso. L'ipocrisia, non il rispetto. La paura, non il rispetto. La paura è un diritto. Scambiarla con il rispetto è una pura mistificazione. Avete ascoltato l'editoriale di Pierluigi Battista, La nostra ipocrisia sulle vignette blasfeme, dal Corriere della Sera dell'11 gennaio. Di fronte alla notizia degli stupri di massa commessi in Germania, le femministe italiane hanno reagito con l'indifferenza. Nel silenzio quasi totale della politica, i pochi interventi sono serviti tutt'al più a prendere le distanze, a mettere dei paletti. Per comprendere un fenomeno sottovalutato, la storia ogni tanto suona un campanello, scrive Giorgio Mulet nel suo editoriale pubblicato sull'ultimo numero di Panorama. Perché allora è così difficile capire che a Colonia è come se fossero suonate insieme un milione di sveglie? Continua Mulet. Affrettarsi a circoscrivere, tentare di contestualizzare, affannarsi a ragionare è il vero segno non solo di arretratezza culturale, ma di cecità intellettuale. Ho riflettuto su questa frase dell'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Federica Mogherini, unica italiana nel governo dell'Unione, pronunciata, come si dice, a bocce ferme l'11 gennaio. La violenza contro le donne non è stata portata in Europa dai migranti, e anche tra loro vi sono persone buone e persone cattive, non importa di quale nazionalità siano. Purtroppo la violenza contro le donne è qualcosa che esisteva prima degli eventi del 31 dicembre. Certo, anche il terrorismo esisteva negli Stati Uniti prima dell'11 settembre 2001. Mai prima di allora, però, si era manifestato con 19 kamikaze che contemporaneamente misero in ginocchio l'America. Affrontare lo sfregio di Colonia con la gnagnera fastidiosa intonata dalla signora Mogherini equivale a non aver capito l'enormità di questo fatto, che ci chiama, sentito il campanello, a prendere definitivamente atto che le politiche di accoglienza a tutti i costi sull'immigrazione sono non solo un fallimento, ma anche e soprattutto una minaccia reale che, come chiunque può vedere, si è già trasformata in un'aggressione. In maniera pulviscolare ma ugualmente terrorizzante, anche l'Italia, come abbiamo ricostruito, ha vissuto la sua colonia la notte di Capodanno. Non ce ne siamo accorti solo perché non abbiamo visto le immagini del branco di incivili come in Germania. Eppure gli stessi lupi sono tra noi e si alimentano della nostra incapacità a rendere effettive le espulsioni, a procedere con i rimpatri forzati dei delinquenti, a respingere chi rifiuta appena salvato di rilasciare le sue impronte digitali. Qui non si parla del dovere di rispettare i nostri valori, le nostre tradizioni e le nostre leggi da parte dei migranti. Come ha ben detto il Papa, siamo al rifiuto radicale delle regole di convivenza. Una donna di grande esperienza in tema di libertà, come Emma Bonino, sostiene che i rifugiati hanno diritto di protezione, ma una volta protetti, va fatto capire loro che i diritti umani, compresi quelli delle donne, sono universali e che nei nostri paesi valgono per tutti alcune regole di fondo che riguardano la libertà delle persone. Si potrebbe ad esempio creare all'occorrenza una scuola di civiltà. Ovviamente ci sarà da mettere nel conto qualche spiacevole episodio di violenza sessuale nel frattempo che gli studenti impareranno la lezione. Ma che sarà mai? D'altronde lo stupro esisteva già prima del 31 dicembre. E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Giorgio Mulet «Contro la violenza c'è solo la gnagnera». Da Panorama del 20 gennaio.